Lo stivale del rock. Questa settimana, Laura Ma. Ciao a tutti, sono Laura Ma, cantautrice abruzzese, psicologa per vocazione, artista per destino e maître per sopravvivenza. Per me la musica è il modo di onorare il talento che la vita mi ha dato e inseguire i miei sogni. Trasformo la fatica in forza e tutto ciò che sento e vedo in testi e canzoni per arrivare dritto al cuore della gente. Oggi voglio condividere con voi tre brani a cui sono particolarmente legata, ognuno con un suo messaggio e la sua storia. Il primo è Ad un passo dalla mia follia. Racconta le vite invisibili dei senza tetto, esplorando la fragilità e la dignità di chi vive ai margini della società. La canzone mette in luce la possibilità di risalire dalle cadute più profonde, trasformando dolore e solitudine in energia e speranza. Il secondo brano è Camminami accanto, è una romantica dichiarazione d'amore dove descrivo i primi passi dell'innamoramento, quell'incontro che crea la magia e la scintilla che accende la fiamma attraverso sguardi, sorrisi e le farfalle nello stomaco. Mi piace pensare all'amore come due eroi che vincono sempre. Il terzo brano voglio parlarvi di Sei forte davvero, è una ballad tra pop e dance elettronica che invita a guardare sempre oltre gli ostacoli. Qui mi soffermo a riflettere sulla vita come se fosse una favola da raccontare ai miei nipoti. Se si aguzza l'ingegno malgrado gli sbagli, le lotte e le perdite, rinascere è sempre possibile, anche quando tutto sembra perso, si vince sempre. Il mio viaggio non si ferma qui, per questo 2026 ci saranno grandi sorprese, nuove produzioni e concorsi live. Se volete camminare insieme a me, seguitemi su Facebook alla pagina Laura Ma Official e ascoltare la mia musica su YouTube e su tutti i digital store. Grazie per avermi ascoltata, spero che la mia musica possa essere una carezza per la vostra anima. Infine voglio ringraziare di cuore lo Stivale del Rock per questa grande opportunità e per questo splendido programma. Un abbraccio da Laura Ma. Ad un passo dalla mia follia, Laura Ma. Tra coperte e cartoni sono sporche e puzzo da morire, mai nessuno mi offre del sapone. Ieri avevo tutta la mia vita, oggi sono senza più una vita. Morta qui tre morti. sono un passo dalla mia follia. Stato, guardatemi. Camminami accanto, Laura Ma. La tua luce, i tuoi occhi, la tua cravatta, il tuo sorriso, i nostri silenzi, le nostre parole, la luce che se ne va, la luce che ritorna. Il tuo sguardo distratto bussò lievemente alla porta. Timido entrò nei miei occhi smarriti, senza che io potessi fermarlo. Solo per noi una grande magia. Il mio cuore in silenzio ha promesso di essere felice. Sempre più vicini a guardarci, sempre più lontani a cercarci. Felice. Sempre più difficile non pensarti, sempre più facile. Amor. sei forte davvero, Laura Ma. Dopo un po' impari la bellezza delle cose. Fra tenere una rosa e far volare una stella, impari che la vita non è perdersi dentro e l'amicizia non è sicurezza. Imparare che i baci sono sorprese e i doni sono promesse. Incominci così a lottare senza paura, come un tuono che rimbomba. Incominci così a lottare senza cadere, di aspettare che qualcuno ti porti dei fiori. Impari che ce la puoi fare, che sei forte davvero, che vali davvero. Cominci così a lottare senza paura, come un tuono che rimbomba. Cominci così a lottare senza cadere, è speciale. Abbiamo trasmesso lo Stivale del Rock questa settimana, Laura Ma.